Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 802. Parleremo dello stato di salute degli oceani e dei mari e degli animali che vi abitano. Parleremo della sofferenza dei pesci e poi dell'incessante guerra contro orsi e lupi. Chiuderemo con una buona notizia per provare a tirarci su il morale. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni, la cura della parte musicale è di Anna Granata. Il progressivo degrado degli habitat naturali è una minaccia incombente su tutti i viventi, umani e no. Ma sono gli animali selvatici, i più esposti, la prima linea della lotta per la sopravvivenza a condizioni ambientali proibitive. I mutamenti climatici e l'azione distruttrice delle società industriali, fenomeni strettamente intrecciati fra loro, sono all'origine del gravissimo peggioramento delle condizioni di vita per milioni di individui, per intere specie. Una buona idea del punto critico al quale siamo arrivati ce la offre una notizia riguardante il mare Mediterraneo. L'Unione Europea ha appena avviato un progetto riguardante tre paesi, Italia, Grecia e Cipro, che si chiama Life Adapts e ha lo scopo di trovare possibili soluzioni di adattamento per alcune specie animali che vivono nel mare e frequentano le coste mediterranee e che stanno incontrando crescenti ostacoli per la propria esistenza. Il progetto ha identificato alcune aree chiave per la vita e la riproduzione di tre specie simbolo del Mare Nostrum: la tartaruga verde, la tartaruga caretta e la foca monaca. Il team di progetto è coordinato dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa ed è composto da enti di ricerca, istituzioni, associazioni di tutela specializzate e storicamente impegnate sulle tre specie. Ebbene, entro il 2030 il progetto Life Adapts dovrebbe valutare le potenzialità di resistenza e resilienza agli effetti del cambiamento climatico delle tre specie, le quali possono essere colpite dall'innalzamento del livello del mare e dall'aumento delle temperature. Questi fattori in particolare incidono sulla possibilità di disporre di siti di riproduzione, sulle dinamiche riproduttive e sulla disponibilità di risorse alimentari. Nella nota ufficiale che illustra gli obiettivi del progetto si fa notare che uno dei punti chiave di Life Adapts è il coinvolgimento delle comunità interessate insieme alle istituzioni locali. Tutto bene, giusto conoscere i comportamenti di tartarughe e foche in un mare sempre meno ospitale, giusto coinvolgere le comunità locali, ma è difficile allontanare la sensazione che ancora una volta stiamo trattando una grande materia, la relazione fra la specie umana, il pianeta Terra e gli altri suoi abitanti, in una chiave puramente tecnica, promuovendo forme di conoscenza che arrivano a valle di percorsi di distruzione che vengono considerati pressoché immutabili. E così si legge la notizia del pur meritorio progetto Life Adapts, ma si pensa al fallimento delle politiche di contrasto del collasso climatico, all'incapacità di mettere in discussione, in politica e nel discorso pubblico, un modello di sviluppo destinato a produrre altre distruzioni di habitat, sempre maggiori innalzamenti della temperatura, sempre nuove guerre. Troppo vasto programma, si dirà. Ma che cos'è il governo ridotto a tecnica? Che cos'è la conoscenza subordinata al servizio di poteri scellerati? Che cos'è tutto ciò se non il crepuscolo di una civiltà? Adattarsi al cambiamento climatico più che una scelta è una necessità, lo sappiamo, ma adattarsi al fatto che niente cambierà nelle cose che contano, nell'economia, nel potere, nelle forme oggi orribili di convivenza fra umani e fra specie, è una forma di manipolazione del pensiero. A proposito della conoscenza messa al servizio di progetti che non affrontano il cuore delle cose, né tantomeno lo mettono in discussione, possiamo citare uno studio pubblicato su Scientific Reports riguardante la quantificazione del dolore dei pesci al momento dell'uccisione, e quindi prima di essere immessi nel circuito alimentare commerciale. Secondo questo studio, per esempio, la trota iridea sopporta in media 10 minuti di dolore intenso durante l'asfissia, con stime che vanno da 2 a 22 minuti a seconda di fattori come le dimensioni del pesce e la temperatura dell'acqua. Ciò, secondo questo studio, si traduce in circa 24 minuti di dolore per chilogrammo di pesce. Questi sconcertanti dati avrebbero evidenziato, secondo i ricercatori, la necessità di introdurre riforme in materia del benessere di questi animali. Un'alternativa, dicono, potrebbe essere lo stordimento elettrico, il quale, se implementato correttamente, potrebbe evitare da 60 a 1200 minuti di dolore da moderato estremo per ogni dollaro statunitense di investimento. Questa ricerca dice proprio così. E tutta questa materia, in ambito accademico, ma anche nel mondo delle imprese, viene considerata parte del grande tema denominato benessere animale. E davvero ci sarebbe da aprire un dibattito serio sull'uso delle parole, così beffarde e tremendamente offensive. I nostri pensieri, la nostra solidarietà in questo momento vanno ai pesci, forse più dimenticati, fra gli animali sottoposti a sfruttamento e massacro di massa, anche negli allevamenti intensivi. Non parlano, non gridano e non copulano. Per questo ci sono così indifferenti, ha detto una volta Luigi Lombardi Vallauri, il filosofo degli animali, amico e collaboratore della nostra trasmissione. Continuiamo a parlare di ambiente marino, segnalando l'allarme che circonda la sorte del pinguino imperatore, un animale che vive, come è noto, in Antartide e la cui popolazione si sta riducendo a ritmi più veloci del previsto. È scesa infatti del 22% in appena 15 anni e si stima che a questo punto, se non interverranno variazioni significative in questa dinamica, il pinguino imperatore potrebbe scomparire dalla faccia della Terra entro il 2100. A lanciare l'allarme lo studio guidato da Peter Fritwell della British Antarctic Survey e pubblicato sulla rivista Nature Communications, che ha analizzato le colonie dei pinguini attraverso immagini satellitari scattate fra il 2009 e il 2024. La ricerca dal 2009 in poi viene ripetuta ciclicamente in una regione dell'Antartide vasta 2,8 milioni di chilometri quadrati, equivalenti, per darmi un'idea, a 9 volte la superficie dell'Italia. Nel 2018 i dati avevano fatto registrare un preoccupante crollo di quasi il 10% della popolazione dei pinguini imperatore, messi in difficoltà soprattutto dalla riduzione del numero di settimane di esistenza delle piattaforme di ghiaccio marino, prima dello scioglimento estivo. Le piattaforme di ghiaccio sono l'ambiente in cui i pinguini nidificano e allevano i piccoli. I nuovi dati relativi al 2024 indicano che la popolazione dei pinguini imperatore ha avuto una riduzione media dell'1,6% all'anno, ossia del 22% nell'arco di 15 anni, seguendo quindi un andamento peggiore del previsto. È una notizia questa che ci fa pensare alle magnifiche fotografie scattate dal grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, recentemente scomparso, e tuttora esposte ai musei di Trento e Rovereto. Il destino dei pinguini imperatore dà la misura, ancora una volta, di quanto sia profonda e buia la notte che stiamo attraversando. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi, non mi hai detto più la verità. Ci siamo persi senza dirlo, prima del tempo nero che è venuto senza pietà, pieno di sospetti, fragili e netti, abbassando, abbassando, abbassando le mani sulle orecchie della mia anima. Mi son detto non è vero, è uno sguardo sincero, sincero e puro come il mio pensiero perso nel parlare serio di passione. Passione mal padroneggiabile mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. E volo, volo, volo con i piedi nell'acqua e un caffè nella pancia per mangiare con te. Abbassando, abbassando, abbassando valigie, dentro al porto mi sopporto un po', la mia faccia stanco viaggio, no, non mi dà coraggio di credere, credere, credere, senza domande, le parole. Abbassando, abbassando, abbassando la testa, mi conforto e non ci penso più. Mi son detto lascia stare, è una storia popolare. E vale, vale, vale una canzone nel parlare ludico di passione, passione mal padroneggiabile mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. E volo, volo, volo con i piedi nell'acqua e un caffè nella pancia per mangiare con te. Fra gli strumenti di conoscenza messi in campo in questa stagione di duro attacco alla vita animale sul pianeta, ce ne sono alcuni che promettono esiti favorevoli, più pregnanti, diciamo così, di quelli immaginati con lo studio sui tempi di asfissia delle trote. Parliamo della prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini, quindi balene, squali, tartarughe. È stata realizzata mettendo insieme i dati relativi a 12.000 esemplari di oltre 100 specie diverse, per capire come le loro rotte intersechino le attività di pesca, il trasporto marittimo e l'inquinamento prodotto dalla specie umana. Lo studio, che permette di identificare gli hotspot oceanici critici per la protezione della megafauna marina, è stato pubblicato sulla rivista Science, dal grande consorzio di ricerca internazionale MegaMove, formato da oltre 400 ricercatori di 50 paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite. Questo, spiega l'ecologo Francesco Ferretti, è uno dei più grandi set di dati di tracciamento marini mai assemblati, Non si tratta solo di tracciare linee su una mappa. Dobbiamo comprendere il comportamento degli animali e sovrapporlo all'attività umana per trovare le soluzioni migliori. MegaMove mira a supportare l'obiettivo 30x30 delle Nazioni Unite, fissato per proteggere il 30% degli oceani del mondo entro il 2030. I dati illustrati nella mappa, tuttavia, dimostrano che anche se questo sforzo riuscisse, non sarebbe sufficiente per proteggere la megafauna. Il 60% degli habitat critici degli animali tracciati, dice Ferretti, si troverebbe comunque al di fuori di queste zone. Oltre alle aree protette, abbiamo bisogno di misure di mitigazione mirate, modificando le pratiche di pesca, deviando le rotte di navigazione e riducendo l'inquinamento. Well, I came upon a child of God. He was walking along the road. I asked him, where are you going? And this he told me. Well, I'm going down to Yasgur's farm. Gonna join in a rock and roll band. Gonna get back to the land and set my soul free. We are stardust, golden, and we've got to get ourselves back to the garden. Then can I walk beside you? Lasciamo i mari e gli oceani e veniamo alla cronaca di casa nostra, che ci propone nuove notizie riguardanti orsi e lupi, gli animali selvatici politicamente più esposti del momento. Dal Trentino arriva la notizia di una nuova vertenza giudiziaria. Come riporta l'agenzia ANSA, 50 cittadini, assistiti dall'avvocata Rosa Rizzi, hanno depositato in procura a Trento un esposto in cui si ripercorrono i fatti che hanno portato nel 2024 all'uccisione di 3 orsi, chiamati nel gergo della tecnocrazia M90, KJ1 e M91. Sono casi dei quali abbiamo parlato nelle nostre passate puntate. Nel documento vengono inoltre elencati 69 orsi uccisi, investiti, feriti, catturati o semplicemente scomparsi in Trentino dal 2000 al 2024. Secondo i cittadini che hanno presentato l'esposto, ci sarebbe una colpevole responsabilità dell'amministrazione provinciale, soprattutto sotto il profilo omissivo, per non avere seguito i dettati delle sentenze del Consiglio di Stato, sostenute anche dalla recente modifica della Carta Costituzionale, la quale, all'articolo 9, nella parte dedicata ai principi fondamentali, affida allo Stato il compito di disciplinare con legge di rango primario la tutela degli animali, in conformità ai dettami delle normative europee, in primis la direttiva Habitat. Così i ricorrenti. Vedremo che sviluppi potrà avere questa nuova iniziativa giudiziaria. Sul fronte dei lupi c'è invece una preoccupante iniziativa della Regione Veneto, che d'intesa con l'ISPRA, l'ente pubblico preposto a fornire pareri tecnici agli enti pubblici, ha chiesto e ottenuto di dotare di proiettili di gomma le guardie autorizzate. Questi proiettili, secondo la Regione Veneto, dovrebbero essere utilizzati nei casi di lupi che manifestano comportamenti di abitudine alla vicinanza agli insediamenti umani o addirittura di confidenza nei confronti delle persone. Secondo l'assessore regionale alla caccia, appunto, alla caccia, Cristiano Corazzari, grazie al via libera di Ispra abbiamo uno strumento in più per intervenire a tutela della sicurezza del territorio, della popolazione e delle attività economiche. È chiaro, diciamo noi, che non si prospettano tempi facili per il lupo, altro spauracchio politico della destra italiana e non solo di essa. I don't care for friends, how can I take care of you? The stars left, the morning came, you know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all, no I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me, but what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted and I can't belong anymore. It's closing time and aftermath, this heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding, gold on my chest as he folds. Per chiudere questa puntata, ecco una notizia che contiene una punta di amaro, ma è comunque una notizia positiva. Un esemplare di avvoltoio monaco è stato recuperato a Saint-Péir, in Valle Varaita, provincia di Cuneo, a pochi chilometri dal massiccio del Monviso, dopo diversi giorni di permanenza nella zona. Il rapace, visibilmente debilitato, è stato osservato e monitorato per giorni dai carabinieri forestali, che poi sono intervenuti in suo soccorso e sono riusciti, dopo un primo tentativo fallito, a catturarlo e portarlo al CRAS, Centro di Recupero Animali Selvatici di Bernezzo, dove l'animale è stato identificato grazie ad anelli di riconoscimento del Ministero dell'Ambiente spagnolo. L'avvoltoio pesava solo 4,4 kg, ben al di sotto della norma per la specie, e quindi in condizioni di salute assai precarie. L'avvoltoio monaco è una delle più grandi specie necrofaghe dell'Eurasia, fondamentale per la sussistenza degli ecosistemi. Minacciato, come tanti altri rapaci, dalla perdita degli habitat e dai pericoli dovuti all'eccessiva presenza della specie umana, è classificato come animale quasi minacciato. Non è quindi nella categoria più esposta al pericolo di estinzione, ma poco sotto. Il recupero in Valle Varaita rappresenta un episodio unico dal punto di vista naturalistico, visto che in Italia l'avvoltoio monaco è estinto dagli anni 60 del secolo scorso. Io credo nei miracoli che la gente può fare, milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi e spiegare un errore, per un gesto che forse sarà l'unico che potremo ricordare. Io credo nei miracoli che la mente può fare, milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era, ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Canzoni che ti han fatto sognare e ti danno la forza di combattere ancora. Per ogni nuova battaglia c'è una nota che ti canta in gola. Forse non sai che la primavera arriverà sperando che il salvataggio dell'avvoltoio monaco portato in salvo in Piemonte sia di buon auspicio per la sopravvivenza di questa specie e magari per un suo futuro ritorno in Italia, abbiamo chiesto a Gabriele Palloni di dedicare a lui, all'avvoltoio monaco, la ricetta della settimana. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Io credo nei miracoli che la gente può fare. Diamo il benvenuto all'avvoltoio che dalla Spagna è giunto fino alle valli di Cuneo con una ricetta tipica della zona, ovvero la torta amato, piatto più invernale ma che intanto mettiamo in dispensa. Gli ingredienti per 4 persone sono 8 patate, 4 porri, 80 g di grattugiato vegetale, 100 g di riso, 250 g di zucca, 70 ml di latte di soia al naturale, 130 ml di olio di semi di girasole, dell'olio extravergine di oliva, rosmarino salvia, dell'erba di San Pietro o in alternativa della menta, sale, pepe e noce moscata. Lavate e lessate le patate. Nel frattempo tagliate la zucca a cubetti e rosolatela in padella con poco olio extravergine, salvia e rosmarino. Aggiustate di sale e portate a cottura la zucca. A parte lavate e affettate i porri e rosolate anche questi in padella con olio extravergine. Lessate il riso e scolatelo. Infine preparate della panna vegetale emulsionando col frullatore a immersione il latte di soia e l'olio di girasole. Sbucciate e schiacciate le patate e mescolatele con i porri e metà della panna di soia. Unite l'erba di San Pietro, la noce moscata e aggiustate di sale e pepe. Spennellate una pirofila di olio e disponete sul fondo metà dell'impasto di patate e porri e sopra di esso versate il riso. Condite con la rimanente panna di soia. Adesso fate uno strato di zucca, condite con il grattugiato vegetale e terminate con un ultimo strato di patate e porri. Spolverizzate la superficie con altro grattugiato vegetale e un filo di olio extravergine. Infornate a 180 gradi in modalità statica per circa 45 minuti. Per questa puntata è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali.